Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. L'eclettica di mezzo, quella del mercoledì, 5 volumi ogni settimana divisi in due parti da 30 minuti ciascuno, poi tutto disponibile sempre con questa divisione anche in podcasting. E la voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni. Tutto questo per Eclettica fra le 19 e le 20. Giulio è Radio Rock FM.com, myspace.com/eclettica, sono questi i due indirizzi di riferimento. Il primo è l'indirizzo di mail da utilizzare anche nel caso vogliate iscrivervi alla lista nera. Sul secondo trovate per esempio le playlist settimana dopo settimana, l'elenco dei film, dei libri e delle canzoni che costituiscono la trasmissione. La mamma mi ha detto che una faccia così, neppure quando l'Irene ha beccato dai cugini del Sasana, me l'aveva mai vista. Quel giorno prendemmo 4 scoppole giocando in casa e papà, mentre mi riportava indietro dallo stadio, l'unica cosa che riuscii a dire fu «Hai da accendere?» Avevo 8 anni, avrebbe dovuto immaginare che ancora non fumavo. Comunque sia, questa è la mia faccia stamattina, ultimo giorno di scuola. Sono stato anche tirato a lucido più del dovuto. Certo, il mio essere tirato a lucido è quello di un figlio con due genitori che, tanto in questo anticipo d'estate quanto nel resto delle stagioni, sono obbligati a combattere contro i bip bip della sveglia e il traffico di Doire. Perciò esibisco nell'ordine un bordo della camicia fuori dai pantaloni, l'ultimo boccone della colazione ancora da masticare e lo stesso paio di mutande che indossavo ieri. Pazienza, domani le cambierò. Quello che invece non cambierà è il mio broncio. Questo era l'incipit di Isola per due di Aidan Sweets. Yeah. My mother, what is the phrase? She isn't quite herself today. Ciao Rock FM, sono Ale di Milano. Per qualcuno Ale e basta. Per altri Ale Mariposa, Ale Patente 353, ma in ogni caso un vostro affezionatissimo ascoltatore. Vi scrivo questa lettera come testimonianza di quello che siete, sarete e siete stati per me. Dopo aver parlato con alcuni di voi, già sapevo da tempo che ci sarebbe stata la possibilità di arrivare a questo punto. Ma ora che tutto è certo, ci tenevo a scrivervi quello che sento in queste righe, che, scritte male, non certo su una pergamena, sono scritte e pensate sicuramente con il cuore. Potrei scrivere per ore e decine di fogli per raccontare questi anni trascorsi con voi, e ci sono migliaia di parole da spendere, ma Grazie è sicuramente una delle più complete e rappresentative. Siete stati la colonna sonora di tanti momenti belli e brutti. Mi avete fatto conoscere e amare canzoni e gruppi che non conoscevo, ma soprattutto mi avete dato il rock. Sono stato onorato di aver sentito leggere i miei messaggi, di avervi sponsorizzato, di aver potuto parlare in diretta o semplicemente di essere salutato da voi. È difficile non commuoversi anche se sono diventato, grazie a voi, un rocker, ma si sa, anche i duri ogni tanto piangono. Perdendo voi, non perdo solo il piacere di ascoltare buona musica, ma perdo, sperando di non offendervi, ottimi amici, grandi fratelli e una famiglia che in questi anni a suo modo mi è stata vicina. Grazie di cuore a tutti voi per tutto, per la vostra semplicità, la vostra modestia, la vostra disponibilità, la vostra simpatia, la vostra competenza, la vostra professionalità, la vostra passione. Siete grandi e sono veramente onorato di avervi conosciuto. E anche quando non ci sarete più, voi sarete sempre in una parte molto speciale del mio cuore. Con Rock FM muore anche una parte di me. Ma se ci penso bene non muore nessuno, perché fino a quando vivrò io, voi, Rock FM vivrà e non smetterà mai di esistere finché il suo meraviglioso ricordo splenderà nel mio cuore. Vi voglio un mondo di bene. Questa era scritta da Alessandro. In questi giorni stiamo ricevendo messaggi nei formati più svariati, tipicamente via mail o via SMS, ma c'è anche qualcuno che ce li manda su carta, come ha fatto Alessandro, una coppia per ciascuno di noi. Giulio Caperdoni, che a questo punto, dopo le parole di Alessandro, vi deve anche ricordare che cosa vi siete ascoltati in questo terzo volume della settimana. Young Lords ad aprire con Radio Songs e poi Our Brother the Native con As They Fell Beneath Us. Ed ora una novità, un'anticipazione che precede di molto l'uscita ufficiale, visto che il disco è previsto il 17 di giugno su Matador, sarà un 7 pollici dal titolo Always Wanted More. Loro sono il quartetto di Memphis di nome Jay Retard. It's your trip, it's not me. You could never. Se, come quel gioco sulle riviste in cui bisogna unire con una matita una serie di puntini per far sì che una figura nascosta si riveli, qualcuno volesse risolvere il dilemma del mio muso lungo, la soluzione sarebbe oltremodo immediata. Una sola linea con partenza agli occhialoni a mezzaluna della Twinings e arrivo su un pennello in carta pesta di nome Wonky, storto. Facile, evidente. Ma come ho detto, i miei genitori inseguono il tempo e scansano il traffico. Perciò l'enigma resterà anche quest'anno irrisolto o semplicemente catalogato sotto il nome di Sta crescendo, contenitore in cui vengono ficcati i miei mutismi da un paio d'anni a questa parte. In questo mare di silenzi e di automobili, il primo ad abbandonare la mia nave alla deriva sarà il papà. La ditta di spedizione in cui lavora è distante solo un paio di semafori da casa nostra. Giusto il tempo di accendersi una cicca, beccarsi gli improperi di mamma, sfogarsi con me e con la mia già faticosamente domabile capigliatura. Questo era ancora l'incipit di Isola per due di Aidan Sweets. I've opened a window for you. A little air will do you good. Why don't you go? Why don't you leave Manderley? He doesn't need you. He's got his memories. He doesn't love you. He wants to be alone again with her. You've nothing to stay for. You've nothing to live for, really, have you? Look down there. It's easy, isn't it? Why don't you? Why don't you? I could never tune my heart to hear melody you sang so clear. Always seemed to disappear. And I could never scale the wall. Diversi umori di Eclettica, le diverse facce di Eclettica, dettate dalle letture, dettate dagli sprazzi cinematografici e dettate anche dalle canzoni come Say Hi con Northwestern Girls, come The Subjects con I Could Never Tune, che si è appena chiusa subito dopo i Say Hi, o come la canzone, il progetto che sta per arrivare a chiudere questa prima parte in compagnia di Giulio Caperdoni, come tutti i giorni, tra le 19 e le 20, sulle frequenze di Rock FM. Un progetto che vede assieme un po' di John Spencer Blues Explosion e anche un po' di Gorillaz. Mi permetto di dire questo perché è un duo che vede assieme Russell Simmons, appunto collaboratore da lunghissima data di John Spencer, e Dan The Automator, che con Damon Albarn ha messo in piedi i Gorillaz. Non ci sono solo loro due sono i titolari di questo progetto che assume il nome di Man Without Pants, ma ci sono tanti altri contributi come quello di Sean Lennon, quello delle Cibo Matto, di membri dei Moni Suzuki, degli Yeah Yeahs e anche altri. Per ora c'è solo una canzone ed è quella che ci ascoltiamo, And the Girls Go.